America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Tanto vale che tu scenda, Jared. Non ci sei rimasto che tu. Venite a prendermi! Beh, vi chiederete che cos'è questa scena che vi ho fatto ascoltare. È una scena tratta dal film White Heat, Calore Bianco, un film del 1949 diretto da Raoul Walsh. È considerato uno dei classici del gangster type, del genere gangster, diciamo. E vi ho fatto ascoltare questa piccola scena perché? Perché l'altra sera alla Morgan Library, che è devo dire un posto bellissimo, anzi se capitate a New York andate a visitarlo perché è stata rifatta, come molti di voi sapranno, da Renzo Piano e dunque è un tempio della cultura straordinario, ci sono state le conversazioni di Antonio Monda, c'è cioè un festival letterario in lingua inglese che discute con persone del mondo della cultura, della letteratura, del cinema, con Antonio di film e che cosa certi film hanno significato per loro, per la loro carriera artistica, letteraria, per la loro vita e così via e così via. E devo dire, l'altra sera è stato piuttosto interessante perché? Perché c'era una coppia che discuteva. C'erano Paul Auster con la moglie Siri Hustvedt, che è una poetessa. Paul Auster, alcuni di voi lo conosceranno, è uno scrittore, un regista, e dunque era una coppia, era una cosa abbastanza inusuale, perché i due poi dicevano, ma sì, ma quel film l'abbiamo visto insieme, quindi era anche molto divertente, molto interessante. I film che sono stati scelti erano dei film, devo dire, molto particolari. Per esempio, Un condannato a morte fuggito di Bresson, La grande illusione di Renoir, Diario di una cameriera di Louis Buñuel, Wanda di Barbara Loden, Hungry Harvest di Agnieszka Holland, Clooney Brown di Ernest Lubitsch, questi ultimi quattro tra l'altro li ha scelti Siri, e poi Calore Bianco invece e La grande illusione di Jean Renoir con Sono fuggito da una gang di Mervyn Leroy e Incondannato e fuggito sono di Paul Auster. Quindi film caratterizzati in modo molto molto diverso. La serata, come vi ho detto, era molto molto divertente, molto interessante. In particolare per me, devo dire, perché? Beh, perché Siri Hustvedt, che è una poetessa ormai affermata ed è una bellissima donna, pensate, io l'ho conosciuta ai tempi dell'università, a Columbia University, ed era una ragazza bellissima, per cui soprattutto gli italiani impazzivano davanti a questa bellezza svedese, perché Siri Hustvedt, come dice il nome, è di origine nordica, di origine finlandese, svedese, non sono sicuro. Allora volevo un po' parlare di questa serata e ne volevo parlare proprio con Antonio Monda, che come sapete spesso con noi qui ospite ad America 24, che insegna storia del cinema a NYU, ma è anche direttore del Festival del Cinema di Roma. Buongiorno Antonio, ci sei? Buongiorno Mario, grazie per avermi rinvitato. Allora Antonio, ma tu lo sapevi che Siri era, beh, diciamo, una mia compagna d'università? Non allora voglio sapere altro, l'ho appena ascoltato, ma mi diverte questa cosa. Beh, Siri no, insomma, adesso mi imbarazzi, se mi vedessero io sarei arrossito. No, se ci sentisse tua moglie soprattutto. Ma no, ma scusa, vedi, tu la butti sempre così. No, io qui volevo dire com'è curioso, perché dopo tanti anni... Non lo sapevo, dopo, è stata una sorpresa. Ecco, dopo decenni tu rincontri personaggi che conoscevi all'università che poi sono diventate delle celebrità. Allora, parliamo di questa serata perché mi ha colpito molto per alcuni aspetti. Intanto, ma questi film che ha scelto Paul Auster e le scene che ha scelto Paul Auster tratte da scene drammatiche di prigionieri, ma secondo te perché si era fissato coi prigionieri? Pochi giorni prima dell'evento Paul mi ha chiamato dicendo: entrambi abbiamo scelto come chiave delle storie che hanno a che fare con la prigione. I miei film sono storie di uomini e donne dentro, letteralmente dentro la prigione. I film di Siri, poi me l'ha spiegato anche lei, sono delle storie che raccontano una prigionia, come dire, intima, mentale, non necessariamente all'interno del carcere. C'è una cosa che mi ha colpito in particolare in questo dibattito, e cioè che sia Paul che Siri, nel descrivere questi film, nello sceglierli, nell'approfondire le tematiche, nel modo addirittura di parlare, nei termini che usavano, mi hanno riportati indietro, come dire, a un atteggiamento intellettual-culturale un po' degli anni 70. Questo andare in certi dettagli, in certi elaborazioni mentali, se vuoi, che secondo me non appartengono molto alla dinamica critica culturale del nostro tempo. Cioè è stato rinfrescante rivedere un po' il passato, però, come dire, mi ha portato un po' indietro. Tu hai avuto la stessa impressione? Sì, questo lo riconosco anch'io. Non lo faccio neanche come critica, è proprio un atteggiamento intellettuale di un mondo di sinistra newyorkese, nella fattispecie di Brooklyn, che vive intellettualmente ancorato a un periodo che oggi non c'è più. Io penso che questo atteggiamento non parli a una maggioranza, parli a una nicchia che si sta ulteriormente restringendo, ma proprio per questo è un bene da preservare. Sì, sicuramente da preservare, però sempre legato a questo, insomma, mi è sembrato un po' uno snobismo intellettuale, perché entrambi hanno scelto dei film che non gli piacevano, perché tu chiedi sempre qual è un film che non ti piace, e Paul Austen ha scelto Via col vento e Siri ha scelto 2001, Odissea nello spazio. Ecco, devo dire, sono tutti e due, per me sono dei bei film. Allora, il dire non c'è un po' una scelta per stupire, perché poi in fondo... Guarda, lì la provocazione l'ho fatta io chiedo un classico che non amate, non un brutto film, un film che tutti amano tranne voi, perché non lo amate? E guarda, in entrambi i casi troveresti con sorpresa tante persone che la pensano come loro. Io per esempio, che amo Kubrick, 2001 dei film suoi che amo di meno, invece Via col vento mi piace enormemente, Paul Auster lo detesta. Io gli ho anche chiesto in pubblico, ma forse c'è un motivo politico, è un'esaltazione del sud razzista e schiavista, diciamolo, però rimane un film grande. L'etica e l'estetica, come sai, non sempre vanno d'accordo. Quante volte ci siamo trovati orripilati dalle immagini di Leni Riefenstahl, ma nello stesso tempo ammirate. Lei celebrava Hitler, quanto di più abominevole, ma sapeva essere una grande regista. Questa è ancora una volta una mia provocazione, e di questo guardo a volte sorprendente, a volte provocatorio, a volte obliquo delle cose, ho cercato di fare l'asse portante del nostro festival, le conversazioni. Sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili e resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Antonio, sei sempre in linea? Certo che sono in linea, dato che abbiamo parlato di anni 70, abbiamo guardato un po' all'indietro, vi segnalo una canzone che amo enormemente, una delle più belle canzoni americane di quegli anni, che è Thunder Road di Bruce Springsteen. Go Bruce! The screen door slams, Mary's dress waves, like a vision she dances across the porch as the radio plays. Roy Orbison singing for the lonely. Hey, that's me and I want you only. Don't turn me home again. I just can't face myself alone again. Don't run back inside, darling. You know just what I'm here for. So you're scared and you're thinking that maybe we ain't that young anymore. Show a little faith, there's magic. È tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going!